Allora, torniamo invece all'altro fondo, quello più importante, 10 milioni di euro erogati per l'acquisto di motocicli e poi dicevamo appunto per i veicoli invece ad alimentazione elettrica 2 milioni di euro. Allora, quanto vi aspettate in sostanza appunto che questo possa alimentare la domanda? Rifacciamo un po' di cifre e soprattutto magari ridiamo un po' di ABC a tutti coloro che fossero interessati a questo incentivo, dottor De Viti, cosa devono fare magari sin da subito per non trovare in difficoltà i rivenditori il 6 aprile da quando scatterà la possibilità di fare la domanda. Innanzitutto il mercato dei veicoli immatricolati, quindi non ciclomotori, non quelli che vanno fino a 45 km all'ora, ma tutta la categoria appunto superiore, sono venduti in circa 405.000 pezzi. Negli ultimi 2 mesi di aprile, sia del 2008 che del 2009, ne sono stati venduti 48.000. Immaginiamo che con questa spinta ci sarà un boom sul mese di aprile, ma poi tutto tornerà come prima, o A addirittura ci maggio. saranno contraccolpi negativi, ecco. Però ecco, ritorniamo un po' a dare qualche indicazione concreta a chi invece vuole approfittare, anche se dovrà farlo in maniera molto veloce, di questo beneficio fiscale, come dicevo, trovarsi pronto a fare la domanda il 6 aprile, quando poi ai rivenditori ci sarà una fila piuttosto lunga. È bene già individuare il mezzo che si vuole acquistare. Certo, innanzitutto bisogna scegliere il tipo di modello e visitare quindi i concessionari per verificare la disponibilità e ovviamente cominciare a prefigurare una bozza di contratto che poi sarà possibile perfezionare appunto a partire dal 6 aprile. È molto importante un'altra cosa, che le case ufficializzino i loro listini, perché non è pensabile che ogni concessionario possa fare un prezzo diverso, ovviamente. Quindi la percentuale deve essere legata al prezzo ufficiale, che peraltro è pubblicato anche sulle riviste di Certo, settore. se poi il rivenditore vuole fare uno sconto ulteriore, quello della Liberissimo. casa, come succede per i concessionari di auto, questo è possibile È liberissimo, naturalmente. certo.